Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Cerchiamo di capire la verità dietro le dimissioni di Walter Veltroni. Secondo me è stato un omicidio politico, non un suicidio, non un normale atto di dimissioni, un omicidio. Chi è l'omicida? L'omicida è Massimo D'Alema. Cercherò poi di spiegarvi il perché, ma partiamo dal presente. Naturalmente, gli elettori sardi hanno contribuito, prima di loro avevano contribuito gli elettori abruzzesi, prima ancora avevano contribuito gli elettori nazionali, italiani, che avevano sconfitto elettoralmente Walter Veltroni. Ma Walter Veltroni, leader del nuovo progetto del Partito Democratico, diciamo era in buona compagnia, erano tutti insieme. Qui c'è di mezzo la forza di Berlusconi, il suo carisma e comunque diciamo i suoi quattrini, il suo sistema di interessi, il suo blocco di potere, insomma tutto quello che volete. Comunque che Veltroni dovesse perdere dopo la prova del governo Prodi per un anno e mezzo, secondo me era nel conto, e con lui il Partito Democratico. La verità è che Veltroni si è dimesso ed è stato assassinato come Cesare nel teatro di Pompeo, perché alla fine, diciamoci la verità, su, D'Alema gli ha organizzato un partito nel partito, faceva i convegni con gli interlocutori di sinistra, Bertinotti e di centro, Casini, tirava fuori i suoi progetti. Il partito nel partito era dotato di molte sedi in tutta Italia, stava facendo un sacco di iscritti, aveva una sua televisione. Insomma, e poi D'Alema alla fine gli ha lanciato contro anche un candidato alternativo, Pierluigi Bersani. Tutte cose legittime, intendiamoci, a norma di statuto. Però, subito dopo la borsa vorrei porre, e porlo proprio al professor Michele Salvati, che è un esperto in questo ramo, politologo ed economista, che è stato tra i primi a lanciare l'idea di un partito democratico, vorrei porgli la questione D'Alema e la voglio dire tutta così com'è, ecco, non finta, non intermedia, non vera, perché il vero tema non è le dimissioni di Veltroni, ma è l'ennesimo omicidio politico commesso da D'Alema. Bene, 800 24 00 24, parliamo delle dimissioni di Veltroni, del Partito Democratico in pezzi, partendo dal teorema dello scorpione. Lo scorpione è D'Alema. Professor Salvati, noi abbiamo al microfono anche graditissimo ospite Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore e suo notista politico. Ora cominciamo con il professor Michele Salvati. D'Alema all'inizio degli anni 90 litigò con Occhetto, lo sostituì al vertice del partito, ne nacque una scia di risentimento che ancora dura quasi 20 anni dopo. Poi organizzò l'operazione Prodi numero 1, la vittoria del 1996 contro Berlusconi dopo il governo Dini, ma subito dopo delegittimò Prodi e tre anni dopo lo sostituì alla guida del governo, presidenza del Consiglio, senza passare per un voto. Dopo la sconfitta del 2000, ci fu 2001, ci fu Cofferati si presentava come il leader della coesione sociale, l'ipotesi di un partito laburista, di una socialdemocrazia. D'Alema lo mandò a lavorare in Pirelli a Bergamo, eppure era molto popolare, molto forte, era un leader che aspettava solo la chiamata per prodursi. Dopodiché, dopo i 5 anni del governo Berlusconi, è sempre D'Alema che prende l'iniziativa e ripropone Prodi, dice rifacciamo Prodi 2, di nuovo l'Ulivo, il centrosinistra, eccetera. Prodi va al governo e nel giro di un anno e qualche mese D'Alema lancia la candidatura di Veltroni come capo del Partito Democratico. La candidatura destabilizza ulteriormente Prodi, che cade, di nuovo Prodi cade e arriva Veltroni. E adesso, partito nel partito, Veltroni indebolito, infragilito, contrastato, candidatura di Bersani, cade Veltroni. Allora, io dico, il teorema dello scorpione è sempre D'Alema che fa fuori i leader, diciamo, del suo schieramento, quali ne siano le conseguenze. A me sembra un teorema che si regge in piedi. A lei, professor Salvati? Forse dovrebbe dire qual è l'esito del teorema dello scorpione, che la rana traghetta lo scorpione, lo scorpione la punge. E tutte e due affogano. E tutte e due affogano. Certo. No, questo è implicito, ma tutto considerato il ruolo di D'Alema in tutte queste vicende, io credo sia abbastanza evidente, però forse la cosa da sottolineare è l'idea, diciamo, che sta sotto a questa D'Alema, non soltanto una persona che cerca di affermare il suo ego o comunque la sua personalità, no? Questo sarebbe riduttivo, ha in mente un progetto politico con grande chiarezza, l'ha sempre reso esplicito, ed è il progetto del Partito Socialdemocratico, naturalmente. Questa è la sua idea di fondo. L'idea di fondo, lo dico meglio, è semplicemente che la sinistra da sola non è capace di, cioè non ha i numeri, non avrà mai i numeri per governare in un paese che è, uso parole quasi sue, sostanzialmente, o per il momento almeno, un paese tendenzialmente di destra, specie dopo l'avvento di Berlusconi. Lo stesso sistema, diciamo, di scontro uno contro l'altro, con la necessità da parte della sinistra di mettere insieme due ceti politici che sono come l'acqua e l'olio, che quindi non creano un'emulsione sufficiente, no, è un progetto che non avrà mai la lucidità, la chiarezza, la semplicità del grande partito personale di Berlusconi. Quindi l'unico modo per la sinistra per tornare a governare è quello di costruire in realtà due soggetti relativamente omogenei, cioè gli ex comunisti che mettono insieme un qualcosa che può essere un partito socialdemocratico insieme con la parte sinistra rinsavita dalle botte che ha ricevuto recentemente, si forma un centro che diventa più grande perché in questo centro confluiranno persone che vengono dal partito personale di Berlusconi e che soffrono anche il partito Berlusconi, per intenderci, fuori dalle metafore, ex democristiani. Altri ex democristiani confluiranno dal Partito Democratico dove stanno male, palesemente, voglio dire, insieme con i socialisti e i laici, si rafforza molto il centro Tabacci Casini, per intenderci, e in un sistema proporzionale si ritornerà al centro-sinistra. Cioè questo è un disegno, diciamo, politico, no, che sarebbe il caso di mettere sul piatto nella sua trasparenza una sorta di ritorno al passato che ha un solo, e a cui si sarebbe già acceduto a questo disegno, sarebbe già attuato, se soltanto, diciamo, Berlusconi avesse mai concesso un sistema proporzionale senza premio, perché in un sistema proporzionale questo centro si formerebbe, si robustirebbe, dall'altra parte, diciamo, ridotto, ma si formerebbe, diciamo, una sinistra relativamente coerente, perché è coerente nella sua tradizione, eccetera, ormai totalmente postcomunista e totalmente socialdemocratica, e grosso modo comincerebbe il gioco dei due forni, nel senso che questo centro potrebbe allearsi o a destra o a sinistra e così fa un governo. Ecco, ma professore, nell'ultimo periodo, negli ultimi 2 o 3 anni, si è vissuto nell'idea che invece questo ritorno al passato proporzionale, vecchio centro-sinistra, diciamo repubblica dei partiti nel senso tradizionale del termine, era impalatabile e che la storia di questo paese conduceva verso un bipolarismo compiuto, verso un funzionamento delle istituzioni così all'americana, no? Voglio dire, questo è quello in cui molti hanno creduto, io Prodi e i prodiani, ci credo ancora anch'io, credo che ancora sia un sistema di democrazia più matura, ci ha creduto Mariotto Segni, ci hanno creduto tanti a questo, c'è un grosso pezzo, diciamo, innovatore del ceto politico che ha creduto in questo disegno, ma vede, l'offerta crea la domanda, cioè nella sostanza se si ritornasse indietro, diciamo, ai partiti e alla... a questo punto anche gli stessi italiani avrebbero questo menù da scegliere e lo sceglierebbero. Senta, il problema vero no, non è che il paese ama il bipolarismo, il paese ama il bipolarismo perché il bipolarismo c'è e sceglie nel bipolarismo, no? Se gli si offre qualcosa di diverso, se il ceto politico produce un diverso menù, sceglie nel diverso menù. Io non credo che il paese di per sé ami una formula politica. No, sceglie non... da quello in base a ciò che gli viene proposto. Lei comunque quando parlò tra i primi in modo organico, serio, della proposta di un partito democratico che superasse le tradizioni, diciamo, democristiana e postcomunista e socialista, lei disse il punto fondamentale, la clausola di questo partito, la cosa fu anche così presa come una bizzarria, come un'eccentricità da professore universitario, la cosa importante è che questo partito non veda tra i suoi costituenti D'Alema e Marini, me lo ricordo perché pubblicammo sul Foglio quel suo scritto molto interessante, e invece D'Alema e Marini c'erano, ci sono e hanno determinato il corso delle cose. D'Alema e Marini agirono nel contesto, cioè, sostanzialmente, vediamo le cose proprio in concreto, e perché è meglio vederle diciamo, con occhi molto lucidi. Sì. Tutto parte, diciamo, dal 2006, tanto per intenderci, o da prima del 2006, dal 2005, quando ci si rese conto che nel contesto della legge elettorale di allora, no, non c'era per il centro-sinistra, non c'era nessuna speranza di vincere, poi si arrivò a pari e patta, voglio dire, ma non si vinse, che non ripresentare il vecchio Prodi, carico degli onori, presidente della Commissione europea, e questa era l'unica. Naturalmente prendere Prodi significava prendere il bipolarismo, significava prendere le primarie, significava prendere tutto ciò che Prodi si porta appresso, ma era la mancanza di altri candidati che consentissero di tenere insieme ex sinistre democristiane, ex comunisti, cioè gran parte del ceto politico che costituiva la sinistra, parlo di ceto politico, non di popolo, di ceto politico, non esisteva altro candidato. Prendendosi, digerendo quel candidato, si è digerito anche il bipolarismo. Ricordo, si ricorderà naturalmente, che lo stesso Rutelli non aveva nessuna intenzione di fare liste uniche. Fu Prodi, imponendo le primarie, che poi indusse Rutelli a dover fare liste uniche, eccetera. Tutto ciò deriva da quella scelta lì e si mise in moto il processo che portò l'amalgama che, come ha detto D'Alema, è fallito. Scusi, è professore, fallito. Volevo chiedere a Frolli. L'ha sempre avuto in mente che sarebbe fallito. L'ha sempre avuto in mente. Per lui, insieme con Cossiga, peraltro, cioè sono persone che ragionano nei termini delle grandi tradizioni politiche della Prima Repubblica. Allora, Folli, Stefano Folli, secondo lei, siccome tra poco Veltroni in diretta dal palazzo di Via del Nazareno, che è la sede del Partito Democratico, darà la motivazione delle sue dimissioni, secondo lei che succede? Darà una motivazione sincera, forte politicamente, farà una denuncia politica, insomma, del fatto che c'è un bivio, c'erano due strade e lui non ha potuto percorrere la sua strada perché è stato ostacolato da D'Alema, o no? Ma io penso che in qualche modo queste dimissioni sono anche polemiche, quindi lui deve dire qualche cosa che sia anche abbastanza forte. D'altra parte ha cominciato col dirlo ieri quando ha detto ci stiamo facendo del male, quindi c'è una implicita denuncia dei freni, dei vincoli che gli sono stati opposti dalle oligarchie interne. Mi sembra che debba un pochino andare avanti su questa strada. Io però non sono d'accordo molto su questo schema della teoria dello scorpione, perché è molto suggestiva, ma secondo me non coglie in questo momento, almeno stamattina, le questioni di fondo che sono D'Alema, certamente. Ho scritto anch'io che c'è una responsabilità complessiva del gruppo dirigente, ma c'è anche una debolezza del progetto, di come è stato gestito in termini politici, e questo è una responsabilità che Veltroni si deve un po' prendere. È chiaro che il progetto era molto bello e l'ho sempre condiviso, Michele Salvati è stato uno dei suoi padri, ma è stato condotto in questi mesi, a mio avviso, tra troppe contraddizioni e troppe debolezze, e saltando immediatamente, immaginando un risultato che ancora andava invece coltivato con molta tenacia, molta pazienza, anche in termini un po' più forti dal punto di vista concettuale. Invece tutto è stato condotto in maniera un po' troppo mediatica, un po' troppo superficiale e un po' troppo poco convincente. Il discorso della identità, che non è mai stata definita e precisata, di questo partito riformista, secondo me in questo momento è centrale. Sì, io direi che il diciamo a Veltroni è mancato molto il carattere, no? Questa mi sembra la seconda grande questione. Posto che, insomma, ripeto, io ho fatto un elenco: Occhetto, scia di risentimenti di 10 anni, Prodi 1 liquidato nella prima esperienza dell'Ulivo, scia di risentimento di 10 anni, Cofferati messo su un binario parallelo, Prodi 2, insomma, la crisi del governo fra molte incomprensioni. D'Alema, il teorema dello scorpione può essere che non sia giusto, che non sia vero, che sia un po' troppo suggestivo. Noi giornalisti usiamo delle formule così che possono risultare un po' farlocche dal punto di vista poi di un'analisi spassionata, calma, riflessiva dei problemi. Però ecco, io davvero non capisco come sia potuto succedere, che un leader ha 3,5 milioni, fatto assolutamente inedito nella storia italiana, di voti alle primarie, non saranno 3,5 milioni, saranno 3 milioni, comunque un grande concorso di popolo elegge un leader. Questa è una legittimazione in un partito fortissima, e questa legittimazione non viene usata. Cioè il partito dal giorno dopo ridiventa un condominio rissoso di capi in lotta tra loro. E questo naturalmente è, come dire, un mistero. Non so se ce la possiamo cavare soltanto... Questa interpretazione che... Come? Per quanto D'Alema e Veltroni siano stati gli eterni duellanti, no, di questa sinistra post-comunista, sì. Però alla fine appartenevano entrambi a una certa oligarchia interna, a un certo mondo. Veltroni era parte integrante di questo gruppo dirigente. Quelle primarie sono state delle primarie... diciamo, non lo devo dire a lei che conosce bene la storia americana, insomma, primarie molto diverse da quelle che conosciamo negli Stati Uniti, sono state più che protette dentro una camicia di forza, insomma, e quindi quei 3 milioni non sono i milioni di voti che hanno scelto Obama negli Stati Uniti, e sono pur sempre il prodotto di una ratifica di una scelta di partito. Poi all'interno di questo Veltroni non ha saputo fare i passi successivi, cioè non ha saputo trasformare quella che era un'investitura da parte di un gruppo dirigente antico che tendeva naturalmente a diciamo, perpetuarsi con quello spirito conservatore che è tipico delle oligarchie. Lui non ha saputo fare i passi successivi e ha creduto davvero... di liberarsi dai ceppi, insomma. Insomma, quella investitura popolare era, diciamo, un appendice dell'investitura di partito. Poi lui doveva darle un senso dopo, liberandosi e questo senso sviluppando non lo si è un progetto, trovato. Non cioè, lo ha saputo fare. Enzo da Udine e poi la pubblicità. Enzo? Sì, pronto, dottor Ferrara. Eccoci qua. Ecco. Allora. Ascolti, io per il mio lavoro... posso permettermi di sentire 12 ore al giorno Rai 24. Quindi mi sono fatto un'idea chiara di tante cose. La sinistra non riuscirà mai ad ottenere un brillante risultato se non scende sul terreno di noi comuni mortali, che abbiamo bambini piccoli, che li dobbiamo far attraversare la strada da soli perché non abbiamo tempo di portare a scuola, di andare in stazione, e c'è pieno di gente extracomunitaria che ti guarda di traverso, di cima a fondo, che non si fa i fatti suoi ma ci fa i fatti tuoi. Quindi a questo punto la sinistra, invece di stare con 15.000 euro al mese, deve scendere in mezzo alla strada come fanno altri partiti. Ho capito, lei insomma rimprovera la sinistra di essere un po' chiusa, diciamo, nel suo palazzo politico e di discutere di questioni interne, di partito, di profilo, di strategia, e di essere lontana dalle preoccupazioni quotidiane della gente. Va bene, è una critica non nuova che si è sempre rivolta ai partiti, direi a tutti i partiti, soprattutto quando perdono. 800 24 00 24, le dimissioni di Veltroni, alle 11 darà le sue motivazioni. Abbiamo qui affacciato il teorema D'Alema, cioè l'omicidio politico di Veltroni fatto da D'Alema, che ha costruito un partito nel partito e si è liberato di nuovo, cosa che diciamo gli appartiene quasi regolarmente come una sorta di sindrome periodica del leader. Del leader pro tempore. E il professor Salvati è qui con noi e gli chiediamo una cosa molto semplice. Adesso ci sono due prospettive: una, prendere atto che il PD è in pezzi e tentare un'operazione, come dire, molto forte, fare subito nuove primarie, subito il congresso, presentare nuove piattaforme, verificare la carta di Pierluigi Bersani, sentire cosa ne pensa Rutelli, mettere in gioco i cattolici, le diverse anime, insomma votare, contarsi e stringere un nuovo patto di leadership intorno a uno che li rappresenti subito, radicalmente. L'altra prospettiva è star lì a traghettare, è un termine multiuso. Traghettare vuol dire attendere, vuol dire rinviare, vuol dire aspettare che arrivi anche la bastonata delle europee, vuol dire un facente funzione, Franceschini, il vice segretario. Insomma, traghettare vuol dire che la nomenclatura politica del PD ci fa annoiare ancora per parecchi mesi. Lei che pensa? Che succederà e cosa dovrebbe succedere, soprattutto da un punto di vista politicamente maturo, adulto, insomma, guardando allora, i problemi? Io premetto che non ho seguito in grande dettaglio, ho seguito naturalmente le ultime vicende interne statutarie del Partito Democratico. Ho l'impressione che prima delle europee non si riesca a fare un congresso, voglio dire, a norma di statuto. Uno statuto c'è già, implica un insieme di passi, tra l'altro un archivio, no, dell'iscrizione al partito, di coloro che hanno titolo per poter partecipare a questo congresso, e i tempi si allungano quasi inevitabilmente. No? Temo perché io si strascicherà l'intera faccenda per parecchio tempo, che bisognerà aspettare le europee, la nuova batosta delle europee a questo punto, e temo, voglio dire anche su molta stima di Dario Franceschini, cioè una persona onesta e competente, che un periodo di vicereame, un periodo comunque di vicariato da parte di Franceschini sia inevitabile. Il congresso lo si farà dopo, l'impressione, dopo le europee, prima delle europee. Le europee sono imminenti, sono domani in termini politici, la macchina congressuale è molto complessa e non credo consenta una... Mi scusi, professor Salvati, ma che cosa impedisce di fare a metà aprile delle primarie e eleggere un nuovo leader del PD? Si presentano le piattaforme nel giro di 15 giorni, perché... i candidati... Sì, per il nuovo... Io non ci credo mai, quando si dice che la cosa è molto complicata, bisogna rinviare, eccetera. No, lo dico. Per esperienza, anche dall'interno della... Sì, certo, lo dico anch'io per esperienza. Ma lei, dottor Ferrara, ha mai letto lo statuto del PD, voglio dire, ciò che comporta? Sì, una volta ho anche partecipato a una riunione della commissione che non stava elaborando. Poi si è annoiato e non è partecipato più alle successive. Ma questa la capisco, io ho partecipato a quasi tutte le riunioni dello statuto. Ma in ogni caso, significa che, grosso modo, che prima da parte degli iscritti, se non vorrei entrare in particolari tecnici che annoiano i nostri ascoltatori, no, a questi devono essere presentate candidature competitive e alternative. Dopodiché queste devono essere istruite e poi dopo ci sarà la fase delle primarie generali, nelle quali viene si fa la scelta tra i vari candidati. Cioè le candidature vengono istruite dal nucleo interno del partito, dagli iscritti, e poi saranno invece gli elettori, i cittadini che vogliono partecipare volontariamente, quelli che scelgono. Insomma, lei dice è troppo complicato scegliere. Ho questa impressione qua, voglio dire. Mi fa un nome, due nomi, tre nomi, perché poi è così che la politica prende un sapore. Chi c'è? C'è un giovane, una donna, una persona, qualcuno si è augurato l'arrivo di un alieno, mi pare la Claudia Mancina oggi sul Riformista. Sì, è un bel articolo, sì. Sì, è un buon articolo. Diceva, speriamo che venga qualcuno che ci liberi dalla coazione a ripetere sempre la stessa storia, la stessa battaglia dei capi, così come Berlusconi è venuto da un altro pianeta rispetto alla politica tradizionale della destra e ha riformato tutto il centrodestra, ha ristrutturato tutto, speriamo che anche da noi arrivi un alieno. Chi potrebbe essere? Anch'io mi auguro l'alieno. Non ne vedo. L'unico vero alieno, per il coraggio che ha dimostrato nel mettersi contro una nomenclatura, ex comunista molto forte a Firenze, è stato Renzi, naturalmente. Sì. Ma questo ha appena vinto, la candidatura a presentarsi come sindaco, mi sembra del tutto assurdo, significherebbe bruciare una speranza reale, perché questo è un ragazzo di notevole valore e di notevole coraggio. Il coraggio manca all'interno di questi meccanismi consociativi, come lei sa. Quindi l'unico alieno vero che è uscito fuori con chiarezza e con senso politico, cioè sostanzialmente non con alla Illi e alla Soru, tanto per intenderci, no? Cioè persona che sa che cos'è la politica, che l'ha macinata e che nonostante la sua giovane età, no, è in grado, un politico con coraggio, ottimo, ma mi sembra del tutto, sarebbe anche sprecare una grossa cartuccia, no, di alieni non ne vedo, vedo semplicemente i tradizionali, delle persone che vanno da Bersani a Letta, tutti costoro, anche se no, sono persone che in realtà hanno scontano l'aver fatto parte di questo conciliabolo che agli idi di marzo, agli idi in realtà di febbraio ha fatto fuori il nostro... Cioè, sono tutti un po' dei congiurati, insomma. No, sto scherzando, adesso sì, seguo un attimo le sue metafore. Sì, sì. E quindi non vedo una cosa di questo genere. Tenga presente, tra l'altro, però è vero di Veltroni, cioè Veltroni è una situazione estremamente difficile. Prima ho cercato di dare l'idea di come si è arrivati alla candidatura Veltroni e perché, come mai le cupole dei due partiti costituenti no, sono arrivati lì. Sono arrivati perché la storia, e quindi la storia parte dalla candidatura di Prodi, tanto per intenderci, e poi si è arrivati inevitabilmente al Partito Democratico in modo del tutto prematuro, in modo diciamo che nessuno in realtà poi voleva, ma poi c'è stata la stretta necessità di far questo, perché si presentiva la sconfitta, voglio dire, in una elezione si presentiva che il governo Prodi era molto debole, sarebbe probabilmente o possibilmente caduto, come poi avvenne, e quindi si doveva presentare qualcuno che non fosse Prodi. E questa è una difficoltà bestiale, perché sinora i due ceti politici erano garantiti da questo personaggio unico, che era Prodi. Comunque guardi, professor Salvati, la lentezza delle procedure, la necessità... C'è Andrea da Torino che vuole dire qualcosa, credo, su questo. Andrea da Torino. Sì, Andrea, buongiorno. Salve, buongiorno. Allora, io volevo dire appunto che secondo me Veltroni è incominciata la sua discesa quando lui, mi sembra nel... ottobre, novembre, aveva fatto questo discorso al Lingotto qui a Torino proprio, e in quel momento era in ascesa, tutti i media parlavano di Veltroni così, e ci aveva avuto 2 anni, 3 anni, 10 anni per fare questa unione per questo Partito Democratico. Arriva Berlusconi, sale sul predellino, dice faccia un partito in 448 e fonda il suo partitino delle libertà. Tutti gli danno contro, però alla fine lui in 448 ha dimostrato di avere un potere, il potere non delle primarie ma il potere di uomo, mentre Veltroni ha cominciato a vedere che lui non aveva questo potere, che questo carisma di Berlusconi. E lei dice che conta il carisma personale, punto. Uno deve essere veloce, dare un senso di efficienza, di capacità di coagulo, di forze effettive, e allora una leadership può avere successo, altrimenti non c'è niente da fare. Folli, che ne pensa? Ma certo, io sono convinto che ci sia stato un problema di leadership. Il Partito Democratico è una ambizione molto alta, molto alta. Si tratta però di sostenerlo poi con una capacità di sintesi politica altrettanto alta, e quindi diciamo, rispondendo a quel grande fenomeno che è stato il berlusconismo in questi anni, con una proposta politica che sia all'altezza di questa sfida e della stessa ambizione che ha sostenuto la nascita di questo Partito Democratico. E qui è mancato secondo me qualcosa, è mancata la capacità di parlare al Paese, e di parlare al Paese una lingua che non fosse quella di Berlusconi, ma che fosse percepita come un'alternativa sostenibile e convincente. Torno a dire, questo famoso riformismo del Partito Democratico è sempre stato abbastanza generico e abbastanza poco convincente, sono emerse le contraddizioni, l'alleanza con Di Pietro, è stato detto tante volte, è stato un elemento mai ben spiegato e comunque è stato pagato politicamente dal Partito Democratico, proprio in termini di capacità di esprimere... Angelo Panebianco sul Corriere della Sera dice che siccome erano deboli hanno sempre preso in prestito poi alla fine le idee programmate. È un po' vero. Così allora, come i giudici, vero, il partito così... dei magistrati gli ha dato la linea sulla giustizia, dubbio. I giornali fiancheggiatori, forte. Sì. Adesso è evidente che se questa tendenza continua, io sono d'accordo con lei quando dice che bisogna fare subito qualcosa di serio, lo statuto è complicato, va bene, ma insomma se c'è una volontà politica si superano le difficoltà dello statuto. Io trovo che l'idea di andare avanti per dei mesi con un Partito Democratico tale quale a quello di oggi, però senza Veltroni e con il vice di Veltroni, secondo me non ha molto senso. Si tratta invece con di tutti dare poi, subito un segnale con molto tutti forte. Poi, questa è la cosa incredibile, con tutti poi che dicono no, non si può fare adesso un capo perché sennò su questo capo ricadrebbe la batosta elettorale delle europee. Ma è un'immagine... Cioè tutti danno l'idea che le europee saranno per forza una... Allora è un partito che esce dalla competizione. No, si tratta di mandare un messaggio preciso, è chiaro, anche di convinzione. Ecco, devono dimostrare di avere una convinzione e di credere in un progetto, altrimenti davvero il disastro dopo l'europeo potrebbe essere totale. Sì, secondo me si dovrebbero presentare tutti subito alle primarie, compreso D'Alema, prima di tutti D'Alema naturalmente. Ma sono d'accordo. E invece lei, professor Salvati, ovviamente pensa che questa è una cosa no, lei mi ha chiesto una previsione, sì. Non mi ha chiesto cosa desidererei io. Cosa desidererebbe lei invece? Ma se mi ha chiesto una previsione, la mia previsione è questa e io la considero disastrosa. Sì. E invece lei cosa desidererebbe? Ma un'accelerazione. La cosa è, sostanzialmente la cosa che... sì, se non conoscessi così bene i miei pollici, se vedessi che in realtà da una competizione forte all'arma bianca può uscire una nuova grossa personalità carismatica, io sarei entusiasta di seguire la linea che voi suggerite. No, come sarebbe la linea ideale naturalmente per un partito che vuol presentarsi come competitivo, come basato sulle primarie, eccetera. Il mio timore è che... personaggi che sono in grado di sostenere questo e che hanno un'idea di dove condurre il Partito Democratico e hanno un'idea di come reagire rispetto ai potentati che stanno sotto il Partito Democratico, i sindacati, quelle cose, le cose che avete detto, i giudici, eccetera, le cose a cui hanno sempre risposto fondamentalmente sia gli ex democristiani di sinistra, sia gli ex comunisti, no? Uno forte su questo non c'è. Vede, il rimprovero che faccio a Veltroni è misto anche nella perfetta comprensione della difficoltà del compito. Lo primo sbaglio che ha fatto, ma siamo molto chiari, voglio dire, il primo sbaglio che ha fatto è di accettare questa investitura plebiscitaria che gli veniva confezionata e che tra l'altro passava attraverso uno strumento che avrebbe dovuto respingere fino da subito. E lo strumento era che si facevano, diciamo, delle grandi liste pro Veltroni che prendevano non soltanto quelli che erano per la linea di Veltroni, per la linea del Lingotto per intenderci, ma il diavolo è l'acqua santa. Certo. C'erano la sinistra per Veltroni, c'era i Dalemiani. Sì, un'alleanza plebiscitaria senza criteri. Questa è un'alleanza plebiscitaria. Lui deve dire: io combatto per le primarie e faccio le primarie. E questa è la mia linea, certo. Con un'idea di società. Non l'ha fatto, e questo non c'è dubbio. Ma lì, ripeto, secondo me è mancanza di carattere. Cioè, ha sempre voluto essere molto tutelato nelle sue scelte. Ecco, non le ha mai fatte fino in fondo in prima persona. Ma insomma. Le strade in diretta e ci vediamo tra pochissimo. Vorrei sollevare il problema Berlusconi, però, perché insomma sono in due nella politica italiana, almeno in due in Parlamento a dividersi l'onere e il dramma e l'onore di governare il paese. 800 24 00 24, le dimissioni di Veltroni, il PD in pezzi. Bruno da Alessandria. Bruno. Buongiorno. Io ho solo una mia personalissima opinione. Io credo, mi sembra di capire, almeno questa è la mia impressione, che il Partito della Libertà, con Berlusconi in testa ovviamente, dà l'impressione di essere un partito decisionista. Forse la gente premia questo, nel senso, soprattutto in questi periodi dove c'è bisogno di decisioni, anche se magari possono essere criticate, non essere condivise. Questo secondo me il Partito Democratico e la sinistra in generale lo paga per la sua, anche molte correnti all'interno del partito creano ovviamente difficoltà nel prendere le decisioni, anche il PDL ha delle correnti, chiamiamole così, diverse, però dà l'impressione di prendere delle decisioni, cosa che secondo me in Italia paga. Non so. Paga, premia, perché la gente vuole soprattutto quello, sì. Beh, è una teoria naturalmente. Che dovrebbe fare adesso Berlusconi, professor Salvati? Cioè Berlusconi adesso si affaccia sul vuoto, che è una sensazione che naturalmente può compiacere un leader, perché vabbè, sbaragliare gli avversari e dominare bene il proprio campo è quello che tutti i leader sognano, e a Berlusconi questo obiettivamente in questo momento riesce bene. Però il vuoto dà anche le vertigini. Come si fa a governare il paese in una situazione in cui, diciamo, l'opposizione latita? Sì, l'opposizione latita per il momento e ha un notevole spazio davanti a sé, nel quale non avrà in realtà un antagonista forte e capace di minacciarlo. Questo è. Allora, se questo in realtà significa affacciarsi sul vuoto, se questa cosa preoccupi Berlusconi più che tanto, io non lo so. So soltanto che ci sono cicli lunghi, questo è un ciclo a lui favorevole, questa prima parte, in parte per le ragioni che diceva Bruno prima, in parte per l'impressione che lui dà di essere un capo autorevole che è in grado di comandare totalmente all'interno del suo partito, voglio dire, l'unico, diciamo, antagonista, no? C'è un, diciamo, questo partito in via di costruzione. No, e per la, quantomeno per la parte di Forza Italia di questa cosa, perché il partito non si è ancora creato, lì il dominio è assoluto, è un potere completo. Quindi il fatto di non avere antagonisti forti è un momento, è una cosa che giova. Però si trova in una situazione di grandissima difficoltà economica, naturalmente, e i tempi sono... No, i tempi, no, la crisi poi che al momento non ha generato alcun risentimento nei suoi confronti, la persona non gli ha, la gente non gliel'ha imputata, perché in parte per ottime ragioni, nel senso che questa crisi è capitata tra capo e collo, no, ed è una crisi di natura internazionale, eccetera, per ora non lo rende responsabile di questo, ma viene inevitabilmente un momento in cui le tensioni in questo paese saranno molto ma molto forti. Io ho molto paura di questo. Ho molto paura di questo particolare momento perché diciamo queste tensioni molto forti non saranno raccolte in un progetto alternativo, cioè l'economia non sempre, l'economia che va male non sempre viene rimproverata all'incumbent, come dicono gli americani, cioè al governo in carica, cioè la gente può anche capire, o il governatore in carica può anche dare l'idea che la colpa non è sua ma viene dal di fuori. Però oltre una certa soglia, no? Quando saltano fuori proprio i disastri dell'economia italiana, perché noi soffriremo, già stiamo soffrendo di più degli altri paesi in una crisi di questo genere, quando diciamo i disoccupati, le sofferenze saranno veramente molto grandi, e beh, a questo punto diciamo che ci sia un'opposizione che riesca a raccogliere un progetto credibile alternativo, o che non ci sia comunque il risentimento, la delusione, le difficoltà finiranno per emergere. Io non vedo per il momento in Berlusconi una capacità di gestire momenti in cui, momenti sfavorevoli, momenti in cui diciamo diventa realmente impopolare. Perché vede, lo stesso Berlusconi non è soltanto diciamo la sinistra che non riesce ad attaccare dei potentati, è lo stesso Berlusconi, voglio dire, è evidente che deve Ma il fatto di avere tutto questo potere in questo momento può aiutarlo a fare delle riforme serie, profonde, adesso comunque le si consideri, il giudizio di valore lo vediamo dopo, ma cioè Berlusconi può essere più incisivo senza un'opposizione forte davanti, anzi con un'opposizione francamente molto debole, oppure questo vuoto può risultare paradossalmente di impedimento? Dovrebbe essere, sì, può risultare di impedimento se dal parte dell'opposizione non c'è capacità di coagulo di alternative reali per la gestione della crisi. Bene, Folli ci viene, grazie professor Salvati, Folli ci viene in aiuto il senatore del PD Stefano Ceccanti, uno tra l'altro dei collaboratori di Veltroni, dei più stretti collaboratori di Veltroni che abbiamo avuto ospite qui qualche giorno fa, dichiara all'Ansa lo statuto del PD, grazie agli articoli 3, 9 e 51, è preciso, è un giurista, consente senza alcun problema di svolgere in periodi brevissimi il percorso congressuale, evitando che il partito sia esposto a un lungo limbo di reggenza, che premierebbe la logica oligarchica da cui deriva larga parte dei nostri problemi. Ecco, chissà se Veltroni alle 11 nella conferenza stampa le residue forze che può mettere in campo un segretario dimissionario le impiegherà per affermare questa linea. Non stiamo a farci ancora del male con un limbo di reggenza, come ha detto Stefano Ceccanti, facciamo subito congresso e primaria, scegliamo un nuovo leader e stabilizziamo questo partito. Chi lo sa? Se c'è una logica in quello che sta succedendo non può che essere questa, non ho mai sentito di uno statuto che è più forte della volontà politica. Certo, e in più Ceccanti dice che gli articoli 3, 9 e 51, adesso ce li dovremmo andare a leggere dello statuto, consentono in realtà, no? di fare tutto quello che è necessario. E su Berlusconi lei che dice? Poi chiudiamo. Che in teoria potrebbe essere spinto ad attuare le famose riforme, ma temo invece che lo squilibrio democratico che si crea con il collasso dell'opposizione possa invece stimolare l'aspetto peggiore di Berlusconi, no? Che è quello un po' narcisista, il vulcano, la bandana, poco propenso a mettere le mani nelle cose profonde, nelle cose che comporta poi delle scelte, e scontentare quella parte del paese, eccetera. Il rischio sarebbe che Berlusconi vivacchi sugli allori. Temo che possa essere questo, con tutti i rischi che questo comporta. Speriamo di no. Salvati, per un'ultima parola, poi chiudiamo. No, non è un'ultima parola. Mi piacerebbe che potesse venire come Ceccanti, anche se non vedo candidati molto forti e con idee radicalmente diverse. No, la possibilità c'è sempre, naturalmente dubito che venga colta. Detto questo, può darsi che mi sbagli. La mia è una previsione, non è una... Desidero le stesse cose di Ceccanti, naturalmente per molti aspetti, ma non sarei sorpreso se venisse così. Piacevolmente sorpreso. Grazie molte, professor Salvati, grazie a Folli, a Maria Grazia, a Paola, a Oreste, Sergio, Riccardo e ai tanti altri che sono in linea che non possiamo ascoltare. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini, Giorgio Mattei, linea Gianluca Nicoletti dopo il GR con Melog 2.0. Grazie a tutti, ci sentiamo domani.